Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo subito la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, Guardie o Ladri. Lo trovate semplicemente digitando questa frase in un qualunque motore di ricerca: Guardie o Ladri. Allora, da ieri stiamo parlando di un episodio apparentemente minore, apparentemente trascurabile, e invece io dico di un'enorme gravità, vale a dire la denuncia fatta da un europarlamentare di una serie di attacchi continui, vandalici, nei confronti di una scuola materna, la scuola materna Giovanni Falcone. Un nome che non è un nome qualsiasi, è un nome che deve rimanere scolpito nella memoria degli italiani ogni giorno, in un quartiere che non è un quartiere qualsiasi di Palermo, ma è lo Zen, un quartiere ad altissima densità criminale. Sono mesi, anni che questa scuola subisce attacchi, ultimamente circa un mese fa, come abbiamo sentito dal preside Domenico Di Fatta, un attacco pianificato, scientifico. Questo perché? Perché la scuola, la formazione, la cultura è temuta dalle cosche, è temuta da Cosa Nostra. L'ignoranza, dell'ignoranza si beano le cosche, si bea la criminalità organizzata, mentre invece la formazione, la cultura, la scuola è temuta. Ieri ho chiuso la puntata dicendo, ricordando una frase di Gesualdo Bufalino, scrittore siciliano, che diceva: la mafia si sconfiggerà con un esercito di insegnanti, quegli insegnanti che al quartiere Zen di Palermo le cosche temono. Ed allora io parto con questa seconda puntata proprio sentendo chi quella denuncia ha fatto, e sono sicuro, conoscendola, che porterà ovunque, vale a dire Sonia Alfano, europarlamentare dell'Italia dei Valori. Buongiorno Alfano. Buongiorno a lei, dottor Galullo, e buongiorno a tutti gli spettatori. Io mi scuso se sentirete dei rumori di fondo, ma è di ritorno da Bruxelles. Esattamente. Esatto. Esattamente. Allora, Alfano, qual è il valore della sua denuncia? Qual è la gravità di quello che sta accadendo in questa scuola siciliana? Allora, io non è la prima volta, come diceva lei, che denuncio questo tipo di attentati alla scuola Falcone. E l'ho fatto precedentemente da cittadino, da presidente dell'Associazione Nazionale Famiglie di Vittime della Mafia, e ancora più oggi che rivesto un ruolo istituzionale. Io credo che sia di un'importanza inaudita un attentato del genere, perché, come diceva lei, quel quartiere non è soltanto un quartiere particolare, ma un quartiere simbolo, e ha lo stesso valore che può avere per esempio cose a noi particolarmente care come Piero Falcone. Hanno lo stesso valore ideologico e la stessa importanza, perché il quartiere Zen e soprattutto il quartiere Zen 2 rischiano di continuare ad essere serbatoio per arruolare forza lavoro alla mafia. Assolutamente. Purtroppo d'accordo. E più che un rischio, mi pare purtroppo ancora una certezza, se è vero come è vero, Alfano, che ieri abbiamo sentito dalle parole del preside dire, quindi dichiararlo ufficialmente, che l'unico presidio dello Stato in quel quartiere è quella scuola. Io condivido, la scuola in quel quartiere a mio parere vale molto più di 1000 soldati dell'esercito. Da anni sento parlare di presidi delle forze dell'ordine, caserma carabinieri o polizia, commissario di polizia. Pare che adesso, insomma, a breve dovrebbe essere di fatto aperta la caserma dei carabinieri. Io me lo auguro, perché io sono totalmente contraria alla militarizzazione del territorio. Non è quello soltanto lo Stato che risolve i problemi. I carabinieri, serve la polizia, serve coloro i quali sono deputati alla nostra sicurezza. Assolutamente d'accordo, Alfano. E tra coloro i quali sono deputati a governare, diciamo, questi fenomeni, a controllarli, a prevenirli, a combatterli, non può non esserci un'amministrazione comunale. È freschissima la nomina del neo assessore, è una donna, all'edilizia scolastica e all'istruzione del Comune di Palermo, la dottoressa Francesca Grisasi, che abbiamo collegata con noi. Buongiorno Grisasi. Buongiorno a voi tutti, buongiorno alla signora Alfano. Ecco, che cosa può fare o che cosa non ha fatto, mi scusi la provocazione, il Comune di Palermo per non lasciare questa scuola, questo presidio, da solo all'interno di un quartiere molto molto difficile? Sì, intanto io desideravo dire naturalmente che chi vandalizza una scuola ha in mente un progetto di abbattimento proprio degli ideali umani più semplici, la conoscenza, il sapere, la possibilità di ideare, di progettare un futuro. Tutto questo a mio parere vuol dire la malavita, sia mafia o qualcos'altro, arrestare quel processo che porta alla libertà di pensiero e di azione. Ma l'amministrazione comunale, io in particolare in questo momento, non mi fermerò mai dinanzi a questi imperativi da parte di chi che sia. Mi impegno a lavorare per ricostruire, perché all'interno di questa scuola docenti, studenti non siano i soli a lottare per un futuro che ci renda liberi dalla schiavitù di qualunque idea perversa. Io questo sto dicendo e di questo mi impegno. Già ho parlato con il preside stamattina, già ho visto che lì qualcosa si muove, ho visto che ci sono delle persone che lavorano, ci sono delle persone, c'erano delle persone della GESIP, c'erano degli operatori, c'era una ditta privata che stava levando il nero dalle aule. Ecco, e questo mi ha dato una grande gioia stamattina. Ecco, ma le chiedo questo, assessore Crisasi, al di là del fatto che io chiamerei le cose con il nome che hanno, quindi la malavita io la chiamerei francamente mafia, lì la chiamerei assolutamente cosa nostra, non trovo altro nome. Malavita, delinquenze sono soltanto dei palliativi rispetto alla forza devastante che hanno le cosche in quella città, nella vostra città e segnatamente in quel quartiere. Ma al di là di questo, che non è soltanto un nome così rappresentativo, ma è importante dare ad ogni fenomeno il giusto nome, le chiedo quali sono gli altri quartieri difficili dove noi non lo sappiamo ma in realtà si stanno replicando delle situazioni come nello Zen, cioè dove sono, come dire, i punti deboli che voi avete individuato, dove la scuola fa paura, assessore Crisasi? Ma sicuramente, diciamo, nelle zone periferiche della nostra città c'è tanta paura, nella zona di Brancaccio, laddove è morto padre Pino Puglisi per lottare contro la mafia. Veramente quell'area lì è una zona che deve essere, direi, bonificata, dove si deve lavorare sodo per portare avanti il sapere, la conoscenza e quindi questa possibilità di ideare, di progettare un futuro che queste persone che la abitano, diciamo, hanno oscurato in questo momento. Ecco, io le chiedo questo, lei è un neo assessore, quindi le domande che le faccio la prego di prendere dal punto di vista costruttivo, critico, ma critico per costruire, non certamente per distruggere, e quindi non imputo ovviamente a lei assolutamente nulla se non la collaborazione che lei ora sta prestando per discutere insieme di questi fatti gravi. E quindi le chiedo questo, ma a suo giudizio, da palermitana, da politica, da assessore, crede che il Comune di Palermo abbia fatto abbastanza dal punto di vista della vigilanza? Mi spiego meglio. Il Comune di Palermo ha un corpo di polizia municipale che spero e credo non gira soltanto per dare aria ai polmoni, ma per avere un occhio lungo e vigile. E allora le chiedo, è un quartiere dove la presenza del corpo di polizia municipale esiste o è soltanto virtuale? Dunque, il corpo di polizia municipale di cui la città dispone è un corpo di polizia che deve suddividersi in tanti rami. Ecco, per esempio, appunto, quello del controllo naturalmente del territorio, quello del controllo delle discariche, quello del controllo delle infrazioni da parte delle attività produttive, degli abusivi, eccetera. Quindi io ho sempre parlato anche quando svolgevo un ruolo diverso da quello che attualmente da oggi svolgo, insomma, ho parlato diverse volte con la polizia municipale, eccetera. Loro mi dicono sempre che sono in pochi e che hanno tantissimo lavoro da svolgere. Benissimo, io la ringrazio di questa testimonianza, assessore Grisasi, e concludo con Sonia Alfano dicendo che la domanda, ripeto, non era provocatoria, ma è soltanto, come dire, un campanello d'allarme per dire ciascuno deve fare il suo. Si parla tanto di ronde, si parla tanto di eserciti, si parla, ma poi alla base bisogna ricordarci che un'amministrazione ha qualche strumento, ce l'ha. Sono pochi, Alfano, dicono i dipendenti del corpo di polizia municipale, ma è sufficiente questo per non guardare come si dovrebbe guardare? No, io non credo. Intanto mi dispiace, ma credo sicuramente è stata una dimenticanza, un lapsus. Oggi continuare a parlare di criminalità organizzata a Palermo fa diciamo un po' inorridire. Noi abbiamo la mafia, non viviamo a Stoccolma, abbiamo la mafia, no, la criminalità organizzata è. Noi stiamo facendo una fatica incredibile per portare al Parlamento europeo e per far fare tutte le leggi, per nella fattispecie una legge, un'unica norma antimafia valevole per tutti i paesi europei, e praticamente adesso stiamo cercando di introdurre la parola mafia e sentiamo dire poi il tutto a ridurre la criminalità organizzata. Ecco, questo qui l'abbiamo già sottolineato noi, di Radio 24, segnatamente io appunto, dicendo che la criminalità organizzata purtroppo a Palermo ha un nome, si chiama mafia, si chiama Cosa Nostra, in Sicilia si chiama, oltre che Cosa Nostra, anche Stidda, nomi e cognomi, delinquenti allo stato puro. Peggio non ce n'è, se non ovviamente i loro confratelli della Camorra e dell'Andrangheta. Allora, io ringrazio Sonia Alfano per il suo intervento, così come ringrazio l'assessore Grisasi, regia Filippo Reggi e in studio Laura Faggini. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.